Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Gerardo Colombo è stato in magistratura per più di 30 anni. Nel 2007 ha appeso la toga al chiodo per mettere la sua esperienza ed il suo senso di giustizia al servizio di una società diversa e a misura d'uomo, di tutti gli uomini. Lo ha fatto e continua a farlo attraverso i libri, tra cui Sulle regole e Le regole raccontate ai bambini, che è il libro di cui parleremo oggi proprio con lui e che ha scritto con la collaborazione di Marina Morpurgo, autrice di libri per bambini. Piccola nota per i nostri ascoltatori utenti: il rumore di fondo che sentirete sono quelli del treno sul quale Gerardo Colombo è in viaggio. Le interviste di Tra le righe. Dottor Colombo, grazie innanzitutto per essere qui su Radio Libriamoci Web. Questo libro, Le regole raccontate ai bambini, che lei ha scritto con la collaborazione di Marina Morpurgo e con le belle illustrazioni anche di Ilaria Faccioli, ha un punto di partenza che è la città di Allegropoli, no? Che lei immagina e descrive abitate da persone come il signor Arrogantelli, il signor Zozzoni, eccetera. Un adulto che si confronta con questi personaggi ha la chiara sensazione che Allegropoli non sia poi una città così immaginaria. Dalla sua esperienza, dalle numerose iniziative a cui lei ha partecipato, gli incontri con i bambini, appunto i bambini che leggono il libro, che sensazioni hanno, che risposta le danno? La risposta che danno i bambini è quella, dipende, perché questo libro è letto sia alle scuole elementari che alle scuole medie, e allora la risposta è un pochino diversa, no? Perché i bambini delle scuole elementari sono molto più diretti, quelli delle medie invece stanno diventando un pochino più adulti e quindi sono meno diretti. La risposta è un pochino più articolata nei secondi piuttosto che nei primi, perché i primi generalmente, quelli delle elementari, si scandalizzano quando osservano una evidente trasgressione delle regole, no? E si scandalizzano perché loro sono generalmente molto di un pezzo, no? I ragazzi delle medie delle volte sono portati invece a riflettere anche sui comportamenti loro. In maniera molto semplice, lei riesce a trattare di leggi, di giustizia, di diritto e traccia anche le differenze tra società di tipo verticale e società orizzontale, dove quest'ultima, seppure auspicabile, non è immune da imperfezioni. Perché comunque è da preferire e perché è anche così distante da raggiungere rispetto ad una società di tipo verticale? La società orizzontale è la società in cui le persone, in cui le regole organizzano lo stare insieme in modo che le persone abbiano tutte le possibilità analoghe a quello degli altri, cioè la libertà, i diritti e conseguentemente anche i doveri siano distribuiti paritariamente tra tutti. La società verticale è la società invece nella quale i carichi e le possibilità, ancora una volta, i doveri e i diritti sono distribuiti in modo discriminato. La società verticale è come una piramide: chi sta in alto può, chi sta in basso deve, e nelle posizioni intermedie più si sale e più si può, e più si scende e più si deve. È un po' il modello sociale che ha organizzato la società in passato, fin quando è arrivata la Costituzione, che invece ha cercato di organizzarla nel modo opposto, in quello orizzontale. Uno degli elementi fondamentali, auspicabile, è la rieducazione di chi commette reati piuttosto che la punizione con il carcere. Però che la punizione, come privazione soprattutto, sia una naturale conseguenza di una colpa commessa è convinzione assai radicata. Quanto lei vede vicina la possibilità di sradicare questa convinzione? Io credo che ci vogliano delle riflessioni molto molto molto profonde e ci voglia anche del tempo. Questo argomento, quello della conseguenza della trasgressione, io l'ho sviluppato articolatamente in un altro testo che ho pubblicato successivamente, che si chiama Il perdono responsabile, perché secondo me è un tema che richiede, come dicevo, proprio un approfondimento molto molto molto analitico, anche se effettuato, perché secondo me è necessario fare così, utilizzando un lessico che sia comprensibile a tutti, voglio dire, non qualcosa di scientifico. Però io credo che ritenere che per far crescere la società e le persone in modo positivo per loro stesse, le persone e per la società nel suo complesso, ecco, io credo che perché si possa raggiungere questo obiettivo sia necessaria un'educazione alla libertà e alla responsabilità piuttosto che non una educazione all'obbedienza. Sulla possibilità dei cambiamenti sono confortato dal fatto che, andandoci indietro, i cambiamenti epocali ne sono intervenuti, proprio perché è cambiato il pensiero, siamo arrivati al suffragio universale, cioè a una dichiarazione meno formale, perché la sostanza, per arrivare alla sostanza ci vuole ancora tanto tempo, a una dichiarazione formale di parità tra maschio e femmina, femmina e maschio, in Italia poco più di 65 anni fa, quando prima nel corso della storia la convinzione era che fosse giusto che il maschio e la femmina fossero trattati in modo diverso. Fino alla fine del Settecento, inizio del Ottocento, la pena consisteva in una supplizio, cioè in una tortura fisica, e poi si è riusciti, perché è cambiato il pensiero, si è riusciti a passare a una situazione in cui perlomeno il corpo rimane intatto. Voglio dire, noi facciamo un percorso, e l'umanità fa un percorso durante la storia, e questo percorso secondo me ci conforta per ritenere che ulteriori passi possano essere fatti rispetto a quelli già compiuti. Perché vivere al di fuori delle regole per i più giovani ha ancora una forte attrattiva, e lo si vede ancora oggi come una forma quasi unica di espressione, o meglio di rivendicazione della propria libertà. Spaventa ancora davvero così tanto la parola regola? Ah, sì, la parola regola spaventa, certo, siccome la parola regola spaventa moltissimo gli adulti, allora necessariamente spaventa moltissimo anche i ragazzi, perché gli adulti trasmettono ai ragazzi una idea delle regole che è sostanzialmente spaventosa. Cioè, regola nel nostro paese, parlando in generale, vuol dire limitazione della libertà, vuol dire obbligo, vuol dire imposizione, vuol dire costrizione. E allora, se vediamo la regola in questo modo, certo che non ci piace, certo che facciamo di tutto per evadere dalla regola, no? Perché a nessuno di noi piacciono le costrizioni, se può far meno. Se però la regola invece è presentata per quello che è, in una società come la nostra, per quello che è in una società come la nostra, in cui l'istituzione garantisce, prima di imporre i doveri, garantisce l'esistenza dei diritti, beh, allora la regola è quella da cui scendono, da cui arrivano, da cui si concretizzano le possibilità per le persone. La regola è la fonte della libertà in primo luogo, e può essere fonte di obbligazione soltanto nella misura in cui l'obbligo serve per rendere effettiva la libertà per tutti. I genitori sono depositari della forma primaria di educazione al rispetto, però spesso di fronte a comportamenti scorretti i propri figli hanno un atteggiamento un po' di indulgenza eccessiva, a volte si sente dire sono ragazzi, cresceranno, e delegano così a un verbo futuro una consapevolezza, una responsabilità, no? Non è che invece cercano di assolvere se stessi dalla propria incapacità di trasmettere il rispetto delle regole? Sì, io credo di sì, io credo che questa sia una cosa che i genitori fanno senza essere consapevoli in genere. Però se li si mette di fronte, forse riescono anche a vederlo, questo aspetto. E quanto sono credibili poi gli adulti nel tentare di far rispettare le regole? Negli ultimi anni non abbiamo dato i grandi esempi, no? No, gli adulti sono molto poco, cioè adesso non è che noi possiamo generalizzare eccessivamente, no? E ci sono delle persone che invece sono molto capaci di comunicare attraverso il loro comportamento. Spesso però gli adulti comunicano qualche cosa con le parole e il contrario di quello che fanno. E allora i ragazzi si disorientano e semmai se qualche cosa seguono il comportamento piuttosto che non, anzi facilmente, generalmente seguono il comportamento piuttosto che non la parola, perché noi impariamo più da quello che vediamo piuttosto che da quello che ci sentiamo dire, no? Il rispetto delle regole, che nesso ha con il raggiungimento della propria felicità, se c'è un nesso? Allora, dipende dalle regole, dipende dal contenuto delle regole. E secondo me, quanto più le regole danno libertà, tanto più permettono alle persone di andare verso la loro realizzazione e quindi riescono verso la loro felicità. Una domanda che non posso non farle. Nella dichiarazione di indipendenza americana del 1776, tra i diritti inalienabili, è sancita la ricerca della felicità, quello che gli americani chiamavano the pursuit of happiness. Perché non c'è nella nostra Costituzione qualcosa di simile? Darebbe forse un qualcosa di più umano? Secondo me, la nostra Costituzione lo dice in altre parole. Nel momento in cui la nostra Costituzione mette al centro la persona, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, che vuol dire che tutte le persone sono importanti e sono importanti allo stesso modo, no? Nel momento in cui mette al centro la persona in questo modo, mette al centro la loro libertà, la sua, della persona, delle persone libertà, tant'è che poi l'articolo 13 dice che la libertà personale è inviolabile, no? Allora, se le persone sono libere, possono cercare anche la loro felicità. E quindi, secondo me, è superfluo dirlo. E tra l'altro, io mi chiedo, questa affermazione così forte, così potente nella dichiarazione di indipendenza americana, poi aveva una corrispondenza effettiva sulle regole e sui modi di essere, oppure ci sono da farsi tante domande, per esempio a proposito del fatto che ci sono voluti quasi 90 anni dalla dichiarazione dell'indipendenza, 89 per l'esattezza, alla abolizione della schiavitù negli Stati Uniti d'America. Beh, certo, allora vuol dire che era quello un ideale romantico dei padri fondatori, insomma, un ideale che... Sì. Era un'affermazione forte. Poi romantico o non romantico non lo so, perché la garanzia della possibilità di essere felice, di andare verso la propria felicità, è la garanzia, arriva dalla garanzia della libertà, no? E nella nostra Costituzione la libertà è un punto assolutamente, il riconoscimento della libertà personale è un punto fondamentale. Per concludere, nella quarta di copertina di questo libro ci sono le sue parole che leggo: mi sono dimesso per portare il mio granellino di sabbia sulla strada del cambiamento, e queste pagine sono una parte di quel granellino. A che punto del percorso è oggi, dottor Colombo? No, se mi ripete prima quello che mi stava dicendo, perché è andata un po' via la linea. No, riportavo le parole che sono scritte nella quarta di copertina del libro, sono le sue parole, che dice: mi sono dimesso per portare il mio granellino di sabbia sulla strada del cambiamento. Sì. E queste pagine sono una parte... A che punto è il suo percorso? Ce ne vuole ancora un bel po'. Ci hai che ciascuno di noi, se vuole arrivare a una società nella quale tutti abbiamo le stesse possibilità degli altri, la stessa libertà degli altri, deve impegnarsi un bel po'. Beh, certo, ognuno deve fare la sua parte. È un compito anche suo e anche degli ascoltatori. Ognuno deve fare la sua parte, insomma. Cioè non, esatto. per una società Esatto. migliore. Esatto. La ringrazio allora, grazie mille per la sua disponibilità e buon lavoro, dottor Colombo. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie, buona lavoro anche a lei. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata. Thank you.